Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Una ragazza, in un viaggio tedioso in treno, sta davanti a me e guarda stizzita il suo smartphone. È arrabbiata, cerco di capire perché. Qualcuno le ha segnalato, non capisce perché, il suo profilo Facebook e quindi adesso può vederlo soltanto lei. Me lo fa vedere, la foto di sfondo è lei di spalle, nuda, le altre foto sempre lei nuda. Un attimo di perplessità e poi cerco di capire cosa ci sia dietro a quella donna nuda che mostra le sue foto, stupita perché l'algoritmo censore di Facebook non vuole che siano pubbliche. Com'è che ti sei accorta che potevi fare la modella vivente? Cioè, da bambina allora, pensavi già a questo? No, assolutamente no. Da bambina pensavo a fare l'attrice, quindi questo è stato sempre il mio sogno, coltivato sin da bambina, sin da piccolissima, e quindi ho compiuto un percorso anche di studi che mi hanno portato a diventarlo in maniera professionale. Per quanto riguarda invece la modella, è sempre stato un mestiere che ho inteso come tale, quindi non come una forma di esibizionismo, da cui ero affascinata perché adoro la storia dell'arte. Perché esibizionismo? Perché hai detto esibizionismo? Perché alcuni la intendono come una forma di esibizionismo il fare la modella, quindi io non lo intendevo come tale, quindi ho sempre avuto il massimo rispetto. Ma perché ti dicono tu fai la modella, quindi ti spogli davanti a delle persone? Esatto, sei un esibizionista. Sì, è una delle, diciamo, anche i non profani del mestiere, quindi anche coloro che dovrebbero comunque essere addentro al lavoro artistico, spesso e volentieri però confondono, diciamo, non ritengono questo lavoro innanzitutto un lavoro, ma lo ritengono una enorme capacità da parte di una persona ad essere disinibita, che invece non c'entra assolutamente nulla con il mio mestiere. Però fammi capire, ci sono persone che millantano di essere artisti soltanto per vedere la modella nuda? A volte succede, sì. Diciamo che a volte succede. Oggi mi sembra la cosa più facile del mondo vedere una persona nuda, cioè non è che bisogna fare grandi salti mortali. Ti piace l'ambiente, il contesto, sgraffignare l'intimità di una persona, non so, qual è il motivo? Probabilmente quello di cui stavi parlando, cioè l'esperienza, perché comunque nonostante si possano vedere miliardi di immagini non censurate, immagini di qualsiasi tipo, immagini quindi che regalano ogni tipo di esperienza, naturalmente a distanza, osservandola da un computer, da uno smartphone e così via, però c'è quel fattore di verità che può essere comunque garantita all'interno di uno spazio chiuso e con un contesto naturalmente protetto che affascina o comunque può dare quell'emozione in più che spinge anche a voler vedere, ecco, più che altro è un vedere. Ma tu ormai li riconoscerai al volo, capirai subito. Sì, ci sono, il marpione dall'artista o dallo studente d'arte. Esatto. Dammi i sintomi del marpionaggio, come lo capisci? Possono iniziare immediatamente a dire ma come fai, ma ti senti a disagio, quindi a porre delle domande che non si porrebbero mai ad un professionista. Cioè io me lo immagino, mi immagino che il rapporto fra l'artista e la modella, per quello che possa averne avuto esperienza, aver visto, io non sono un artista, in quel momento sì, è un essere umano a tutti gli effetti, ma tu devi vederlo come un manichino fatto di carne, perché sennò la dimensione del rapporto deve scomparire. È una persona che accetta di spogliarsi davanti a te, perché il finale è che tu debba avere la possibilità di imparare a riprendere un corpo. Esatto, dal vivo, o di realizzare un'opera d'arte, o insomma comunque di fruire di una professione, di un'altra professione che ti permette di realizzare delle opere o di esercitarti, o comunque in un contesto appunto esclusivamente artistico. Anche perché immagino che non sarà il caso del grande artista con la modella prediletta, su cui possono nascere anche delle storie, ma qua stiamo parlando di studenti che vanno lì, o persone che vanno per imparare, persone che per hobby, esatto. Anzi, non diventeranno magari mai artisti, probabilmente, capito? Rimarranno sempre dei dilettanti. Certo, ma infatti appunto il discorso a cui mi riferisco è più legato anche a coloro che lo fanno per hobby, e che però naturalmente rappresentano un'ottima fetta, proprio da un punto di vista anche economico. Naturalmente mi riferisco di coloro che fruiscono appunto di gallerie, di atelier, quindi di che frequentano, ecco, dei posti in cui si cerca di sviluppare quanto più possibile ogni forma d'arte. Però diciamo, ecco, come stavi dicendo tu, avendo imparato a conoscerli, per me è un non problema, quindi riesco immediatamente a creare, come posso dire, una barra tale da proteggermi da questo punto di vista, e al tempo stesso comunque riesco a lavorare in totale serenità, perché faccio capire, diciamo, ho una piccola virtù, se posso tra virgolette darmi una dirmi e farmi un complimento, riesco immediatamente ad allontanare, ecco, determinate situazioni che potrebbero poi in un contesto collaborativo diventare sgradevoli, per cui evidenziandole immediatamente poi si può lavorare tranquillamente, il che naturalmente non esclude le emozioni che si sviluppano nel momento in cui io svolgo il mio lavoro di posa, e nel momento in cui naturalmente l'artista, lo chiamo così in generale, al di là se lo sia appunto più o meno ad un livello professionale, riesce però comunque appunto a carpire delle emozioni da me, io riesco a darle e al tempo stesso a riceverle. Quindi, ma ti ricordi come hai cominciato? Qual è stata la prima volta? Quando tu da attrice, allora, a un certo punto che lo ricordo, hai cominciato a fare la modella? Ho detto, perché non provarci? Innanzitutto voglio vedere che cosa significa stare in posa, e quindi ho deciso di fare questa esperienza. Ho avuto modo di avere il contatto dell'artista che stava cercando effettivamente modelli e modelle, e questa persona, se posso citarla, è il mio maestro, il mio mentore, la persona a cui devo tutto in questa carriera, che è Riccardo Mannelli. No, Mannelli è un artista famoso, un disegnatore. Esatto. Tu ricordi molto le donne di Mannelli. Adesso che me lo dici, ti rivedo nei suoi disegni. Io ricordo perfettamente il giorno in cui ho posato da lui. Era una caldissima, afosissima e torrida giornata di agosto. Questo facilita lo spogliarsi, ovviamente. Sì, ma diciamo che, come posso dire, ecco, non sapendo assolutamente cosa fare, e ritrovassi, tra l'altro io all'epoca, ecco, diciamo, Riccardo ama comunque i volti che siano ben visibili, e io invece all'epoca portavo, attualmente ho i capelli molto lunghi, mentre invece all'epoca portavo un caschetto alla Valentina, quindi con frangetta anche. Ricordo che la prima cosa che mi disse è che non andavo bene, perché il volto doveva essere visibile, invece la mia fronte era completamente ricoperta dalla frangetta. Lo capisco, io disse... odio le donne con la frangetta, non le posso dire. E comunque, ecco, mi disse di immediatamente trovare qualcosa per togliere questa frangetta davanti agli occhi, altrimenti non gli sarebbe servito un volto così. Quindi ricordo però vedi la stranezza, un indubbio riconosciuto grande artista che ti vede, mm-hmm, ti dice di scoprire la fronte, la differenza dal, sì, Marpione, che magari prova a fare le domandine maliziose, come ti spogli, perché ti spogli, ti dispiace, certo, ti senti, è che l'artista ti aveva bisogno di vederti la fronte scoperta, poi il resto era secondario, secondo me. Esatto, e questo infatti e lì è stata la garanzia, per questo lo cito, perché oltre ad essere un caro ricordo, diciamo che è stato il mio battesimo in un certo senso, in maniera non dico brutale, però effettivamente lui mi fece capire: questo è il mio modo di lavorare, così anche se sei carina con quella frangetta a me non interessi, quindi qui stiamo lavorando. caso, cerca di trovare un modo nel giro di 5 minuti di togliere davanti questa frangetta davanti alla, occhi, alla fronte. Acqua che mettevo in continuazione ogni 10 minuti perché poi faceva caldo e quindi esatto, all'indietro. My friends saying things I don't mean out loud. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Parliamo un attimo del corpo. Allora, sì. Il corpo femminile nella sua esposizione, soprattutto digitale, oggi deve rappresentare necessariamente alcuni standard. Tu guarda, non so, TikTok, questo social di ragazzine, sono ragazzine che apparentemente sono perfette, ma rispondono tutto a un certo standard. Vita finissima, tette gonfiatissime, esatto. Sedere rotondissimo, labbra gonfiatissime, tutto uguali, standard. Sono delle bamboline gonfiate, ma da 15 certo. anni cominciano ad adattarsi. Idem tutte le persone, diciamo, notoriamente considerate nello star system medio, sono fatte tutte in un certo modo. Alla modella non è richiesto questo, anzi deve avere un corpo che mostri delle differenze allo stesso tempo delle caratteristiche delle persone comuni, sennò che senso ha? Sennò prendo Barbie e ci metto quella davanti per disegnarla. Esatto, esatto, infatti questo è il bello del mestiere, perché parliamo naturalmente, infatti quando mi hai chiesto prima cosa fai, differenziamo ovviamente la modella fotografica e la modella pittorica. La modella pittorica o modella d'arte o modella vivente, che secondo me è l'aggettivo migliore che esprime davvero la realtà del mestiere. Cioè vuol dire una persona normale, una donna normale, non artefatta. Esatto, che vive, quindi appunto vivente nel senso che naturalmente è umana, quindi svolge le azioni o prende le pose di un normalissimo essere umano, e naturalmente a cui si chiede la capacità di fissarle per un dato periodo di tempo, che possono essere da 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, 40 minuti anche di posa. Cioè tu stai 45... ferma 40 minuti immobile, riesci a stare? Esatto, sì, io sono arrivata perché si erano dimenticati di me, diciamo, di darmi lo stop della posa, anche ricordo una volta 55 minuti. Cioè se sei una statua, tu 55 minuti rimani lì immobile, esatto, ferma. Esatto, esatto. Ma per questo avrai studiato, ti sarai allenata, non è una cosa che viene naturalmente. Per fortuna no, non è ovviamente naturale, infatti a coloro che, soprattutto le ragazze che mi chiedono come si possa iniziare questo tipo di percorso, naturalmente dico che l'allenamento fisico è la cosa più importante, perché è un mestiere durissimo dal punto di vista muscolare e la concentrazione di cui ho bisogno è paragonabile a quella che è necessaria per chi pratica yoga, per chi pratica discipline orientali, di rilassamento del corpo. Perché naturalmente in una posa, adesso anche senza esagerare, a 55 minuti, ma anche di mezz'ora, anche la più comoda possibile, comoda naturalmente dal punto di vista della modella, dopo un po' di tempo appunto inizia magari a formicolare qualcosa, quindi la circolazione si blocca da qualche parte ed è ovvio che il muscolo non lo si può sciogliere appena la fine della posa. Tu non senti la necessità che sentono molte persone che si espongono di spettacolo, d'arte, personaggi famosi, che a un certo punto uno deve intervenire sull'esito naturale che il tempo compie sul proprio corpo? Se sei modella vivente, come dici te, lo sarai anche fra 10 anni e 20 anni, sarà una donna, esatto, con un'età più avanzata. Qualcuno sarà interessato, perché mica gli artisti ritraggono solo le ragazzine, ritraggono anche donne mature. Quindi tu non devi fare tutto quel lavoro di... diciamo ritocco e restauro, no, costante che fa magari una banale presentatrice di telegiornale. I nostri telegiornali sono presentati da donne che nel tempo diventano altre persone. Tu sarai sempre te stessa e finché t'andrà potrai posare. Certo, nelle evoluzioni naturali del mio corpo, e ovviamente posso dirti che anzi i corpi, soprattutto quelli che presentano per esempio rughe sul volto o anche per esempio rilassamenti, quindi mi riferisco a glutei, pancia e così via, sono estremamente interessanti. Quindi chi disegna, diciamo, al di là poi ecco delle proprie preferenze, perché naturalmente poi lì è la differenza da un manichino, le persone, esatto, che hanno qualche piega umana. Ma conosci modelle o modelli anziani, cioè avanti nell'età? Sì, ne conosco, sì, in particolar modo un modello che è un mio amico, anche con cui diciamo che cerco ogni volta che si presenta un'occasione, ecco, di a mia volta di presentarlo, ecco, in determinati contesti, perché lui è âgé, un modello âgé. Quanti anni ha? Estremamente bravo. Quanti anni? Diciamo che non come posso dire, no, lui non vuole che si dica ovviamente la sua età, quindi preferisco non dirla. Comunque avanti rispetto a un quarantenne, ecco, diciamo così. Sì, molto molto di più, molto di più, e ti posso garantire che io ne ho 34 e lui, diciamo, questo insomma lo posso comunque dire che ha oltre il doppio dei miei anni. Complimenti davvero. Esatto. E ti posso garantire che ha una fermezza, una stabilità invidiabile, soprattutto anche che spesso è invidiata da coloro che appunto da giovani modelli e modelle che non conoscono niente del mestiere, che dopo 5 minuti ti posso garantire iniziano a muoversi, iniziano a far percepire una loro instabilità, che è la cosa anche più dannosa. Però questo esercizio, che lo fai indubbiamente, lo fai con esseri umani, quanto ti ha addomesticato nella tua vita personale, nelle tue relazioni? Sei paziente, sei una persona malleabile, affabile, oppure solo il lavoro questo? Io personalmente, se non sto bene con me stessa, quindi dentro di me, e comunque non ho una situazione serena dentro di me, non posso nemmeno garantire fuori questa stessa serenità, e ciò deriva anche dal lavoro teatrale, perché in quanto attrice non posso, per quanto abbia modo di rappresentare 3.000 vite, 3.000 contesti, 3.000 situazioni, io devo comunque essere al tempo stesso me stessa, ma essere serena nel diventare altri o altre. Cioè, però ecco, adesso passiamo a quella che, come tutto il mondo, può essere un'alternativa che uno si inventa. Lo smart working, sì, per voi cosa consiste? Ad esempio, in questo momento, cosa potrebbe consistere? Mi posso inventare quella che è l'attività che fortunatamente all'estero è partita da tempo immemore, cioè ti parlo da metà febbraio, quindi quando ancora non c'era la diffusione, insomma, della tragedia del coronavirus, ovvero le pose online. Ossia delle sessioni di disegno dal vero online attraverso una webcam, con l'immagine naturalmente il più da poter offrire nel massimo della qualità, quindi in HD, con la migliore risoluzione possibile dell'immagine, ed è un servizio che alcune di noi stanno offrendo. E che la modella può fare smart working tranquillamente, volendo. Tranquillamente, diciamo, sì, lo può fare, naturalmente offrendo, ecco, questa attività a chi lo desidera. E appunto all'estero è un'attività che è partita immediatamente, quindi non hanno aspettato, ecco, come ahimè è successo anche qui, insomma, la possibilità di una manna dal cielo. Si sono immediatamente organizzati, anche perché c'è un discorso online, esistono già dei canali da YouTube o numerosi siti come Croquis Café, per esempio, o tanti altri che comunque propongono per esercizio delle pose già riprese, quindi in video, o delle foto naturalmente dei modelli, che possono essere fruite da chi per esercizio appunto vuole tranquillamente utilizzarle Manca il rapporto personalizzato. L'artista ci oggi vuole disegnare una donna fatta in questa maniera, in questa posa, manca questa cosa qua. Ma tu ti stai organizzando, è fondamentale. Ti sei organizzata in questa direzione? Mi sto organizzando. Io a fine aprile ho, diciamo, proposto in due sessioni totalmente gratuite online attraverso, diciamo, una diffusione che ho potuto compiere tramite il mio profilo Facebook e la mia ex pagina Facebook, di cui ahimè sai qualcosa in merito al suo oscuramento. E sono state, ecco, ma non c'è un problema. Ecco, i social in realtà sono veicolo delle peggiori bassezze dell'umanità, ma allo stesso tempo hanno una sorta di algoritmo moralizzatore. Come fai te a mostrarti su un social come Facebook nell'effettivo svolgimento delle tue funzioni? Perché devi metterti nuda. Allora, innanzitutto ti cancellano Facebook, subito, immediatamente, assolutamente, e di questo quindi ne sono consapevole. Ci sono tantissime piattaforme, per fortuna, online, appunto del tutto gratuite, che permettono di avere appunto in conversazione, diciamo così, perché naturalmente la modalità è quella di una conversazione in video, quindi spesso utilizzata per meeting, per esempio, e quindi è un modo per poter comunque offrire delle pose stando a casa e diciamo incontrare comunque disegnatori che hanno necessità di esercitarsi, perché c'è un discorso, è vero che manca la parte emotiva, è vero che manca il contatto, è vero che manca la presenza di un gruppo all'interno di un atelier, quindi fatta, diciamo, consapevoli di tutto quello che non si può offrire da casa, diciamo da casa naturalmente. Tuttavia ti posso garantire che in ogni caso sia per la tipologia di pose, sia per il contesto, che è un contesto domestico, quindi molto legato al vero life drawing, cioè alla vera, al vero disegno dal vero, quindi perdona il bisticcio di parole, diciamo che può essere comunque una risorsa per una serie di cose. Innanzitutto in atelier non è possibile, e ti parla una persona che si porta quasi la casa dietro nel momento in cui posa in atelier e non lo so, deve realizzare, ecco, qualcosa di scenografico, deve realizzare appunto pose prese da un film. Spesso tutti mi conoscono, io vado in giro con il mio trolley e a volte chiedo dei passaggi anche in auto, perché non ho la patente ma non ho la macchina, ahimè, e quindi spesso insomma ho stracaricato macchine altrui per portarmi tutta l'attrezzatura che mi serviva, forse per pose di 3 ore, e poi naturalmente veniva eliminata. Adesso fai e tutto a casa. Questo è anche un po' il fascino teatrale. Adesso ho tutto in casa. E quindi, diciamo, ripeto, sempre consapevole dei limiti che offro nel momento in cui, è ovvio, uno mi vede in un'immagine, quindi che può essere bidimensionale, fredda, piatta, insomma, ripeto, ne siamo consapevoli, sia io che poso che chi vede. In ogni caso, comunque, ci possono essere delle situazioni anche molto gradevoli o da inventare, ad esempio, anche perché sono disegni già pubblicati, quindi ne posso parlare delle cose che ho fatto, un contesto domestico può essere quello di bere tranquillamente un caffè, quello di mostrarsi dopo una giornata di palestra. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. And hey. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going hey. Out of bed. Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Mi fa riflettere su una cosa. Ho letto io un po' di documentazione di storia sulla famosa influenza spagnola che ha fatto morire milioni di persone, che è durata dal 1918-1919. Sì. La riflessione era che di quella pestilenza non esiste testimonianza artistica. Gli artisti hanno come cancellato, sia chi scrive, sia chi fa il poeta, sia chi disegna, dipinge, la spagnola è stata cancellata dalla sensibilità artistica. Tutto sommato, te con le tue pose sei una delle pochissime persone che lascerà testimonianza, che non sono le foto pubblicate, dei selfie, nei social di noi che stiamo a casa, esatto, che lascerà una testimonianza artistica di questo momento bravissimo. Particolare. hai inquadrato perfettamente l'emozione di cui ti volevo parlare, perché è stata parlo soprattutto della prima diretta che si è svolta il 24 aprile nel pomeriggio. Siamo tutti quanti partiti con una carica emotiva straordinaria. Io ero la prima ad essere emozionata, ma naturalmente conducendo come se fossi, quasi come se ti rubasse il mestiere, in una trasmissione radiofonica un po' dovevo coordinare tutti quanti. È ovvio che ho cercato appunto di, come posso dire, di essere il più tranquilla possibile, e naturalmente di non far trasparire troppa emozione, anche perché poi dovevo lavorare, quindi dovevo preservare per lavoro quella tranquillità di cui ho bisogno, quella calma di cui ho bisogno, di cui ti parlavo prima. Ma augurandoci tutti che queste siano le sessioni da non ripetere mai più, ovviamente augurandoci che tutto questo finisca presto e che si possa ritornare immediatamente in atelier a posare dal vero, eccetera, però gli artisti hanno realizzato dal vivo, online, qualcosa di irripetibile, cioè dei disegni, delle opere d'arte all'epoca, al tempo del coronavirus. Quindi questo credo che sia, valga da sé, insomma, come giustificazione della possibilità di continuare in questo modo. Se, un'ultima perché domanda che mi viene un altro dubbio. Questo è bello, finalmente ho la prova che rimarranno delle testimonianze artistiche, non soltanto sì, i selfie fatti dentro casa o le foto dei fotografi. Ti dico di più, se mi posso permettere, sì, solo questo piccolo passaggio. È stata talmente forte anche per alcuni l'emozione, poiché c'erano anche degli studenti che frequentano delle scuole, per esempio la Scuola Romana dei Fumetti, che naturalmente ora è chiusa, quindi anche lì dove si posa dal vero e dove io appunto poso dal vero, ahimè non c'è questa possibilità della, ovvio, della modella. Alcuni hanno utilizzato le pose che io ho fatto in occasione appunto di queste due giornate per presentarli come lavori da naturalmente far, diciamo, da far curare, da far controllare coi loro docenti, e i risultati sono stati straordinariamente ottimali. Per me è stata una fonte di gioia magnifica, perché vuol dire che quel passaggio in più, cioè l'emozione che comunque è stata, come posso dire, io lo chiamo naturalmente il filo rosso, il fil rouge, quindi comunque quell'emozione che è passata da me a loro e viceversa, che mi hanno restituito, è andata a finire nei loro lavori, nei lavori soprattutto di questi ragazzi, e il risultato è stato che hanno preso degli ottimi voti e che hanno avuto molti complimenti. Suppongo che se avessero comunque, ripeto, non per vantarmi, ma per parlare dell'esperienza comunque emotiva ed emozionale fortissima che si è venuta a generare, suppongo che se avessero scelto o di inventare, ecco, delle pose, perché ovviamente sono in grado di farlo, o se avessero preso spunto da foto, insomma, trovate sul web, non credo che il risultato sarebbe stato lo stesso, non credo. Quindi quella parte di carica emotiva comunque c'è stata, e sono opere irriproducibili, speriamo, irriproducibili ovviamente. Passando dall'ambiente concreto in presenza all'ambiente digitale, secondo me una domanda: aumenta quella sorta di possibile equivoco? Cioè, quanti, vedendo una pagina che presenta il tuo lavoro di modella vivente per artisti, hanno equivocato pensando che era una webcam girl, quelle lì che lo fanno con altro intento, con altro scopo e non certo con finalità artistiche? Ecco, e si può entrare in questa zona di ambiguità in cui viene frainteso ancora di più quello che è, allora, in realtà il tuo mestiere? Tecnicamente la si può aggirare in un modo: esistono le liberatorie, per fortuna, e quindi, diciamo, io ne fruisco ogni volta che voglio mettere in chiaro, ecco, determinate situazioni. Considera che le piattaforme che si utilizzano prevedono anche la possibilità di effettuare dei video online e prevedono naturalmente la possibilità di scattare delle foto online. Quindi questo aspetto, diciamo, che è anche poi legale naturalmente, perché qui entriamo nel discorso del diritto dell'immagine, quindi proprio in un discorso molto tecnico. Però questo è il tuo lavoro. Io penso, esatto, che... Esatto, questo è il mio lavoro, quindi lo può conosco. Può farti una foto quando uno dipinge, perché fa parte, secondo me, oppure no, quando uno ti dipinge dal vivo, in tempi non di coronavirus, poteva farti delle foto e tenersele? Allora, decido, in genere naturalmente la risposta è sì, ma sono io che decido chi può fare la foto, nel senso che comunque qui entriamo poi in un discorso di rapporti anche umani, naturalmente di amicizia, per cui mi fido. No, perché è una cosa in più, perché tu se fai una posa come modella fotografica è una cosa, la fai con un fotografo e si stabilisce la proprietà delle, esatto, foto, come, certo, le usa così. Certo, la foto, esatto, fatta così, uno fa nell'uso che vuole. esce dalla prestazione professionale. Esatto, tu vai lì per farti disegnare. Ti dico, sono io a decidere, diciamo, ovviamente per ma quando sei online ti rendi conto, chiunque può fare uno screenshot o registrarsi te da quell'altra parte. Allora, registrarmi no, perché ci sono delle funzioni per poter disabilitare il video, quindi la possibilità di una registrazione dell'intero meeting, diciamo così. E invece per quanto riguarda le foto, come ti stavo dicendo, io mi tutelo attraverso delle liberatorie, quindi ne sono perfettamente consapevole, e anche perché poi questo è stato ovviamente un problema anche all'estero, quindi tranquillamente, insomma, non diciamo già affrontato questo. Chi conosce la materia e chi è una modella professionale, prima di pensare alla posa deve pensare, e prima di pensare appunto a determinati sistemi, ecco, di continuare a lavorare come questo, deve pensare appunto agli aspetti legali. Questa è la cosa più importante in assoluto, perché anche perché il tuo patrimonio aziendale è il tuo corpo, non è che poi disperderlo così. Bravissimo, esatto. Mi sembra, la vedo molto molto tranquillamente. Certo, sì. Esatto, va tutelato, e quindi le forme di protezione in questo caso derivano principalmente da delle liberatorie. E quindi diciamo, ecco, la cosa più importante a cui pensare innanzitutto prima di organizzarsi eccetera è proprio essere consapevoli che naturalmente in un meeting, a seconda del numero delle persone che possono essere presenti online, cioè veramente può esserci tanto online una persona quanto 20, e quindi di quelle 20 persone anche dall'estero è ovvio che sono anche spesso delle persone sconosciute. Io alcuni giorni fa ho posato per una persona che si trova, per un artista, naturalmente un vero artista, però comunque a me sconosciuto in ogni caso, anche dal punto di vista proprio di rapporti interpersonali, di rapporti di amicizia, che si trovava a Città del Messico. E quindi naturalmente, essendo comunque la prima volta che ci incontravamo per un discorso di carattere lavorativo, quindi l'uso della liberatoria è una forma di protezione la più naturale possibile, ripeto. Quindi chi lo fa di mestiere, chi fa la modella di mestiere, sa che deve tutelarsi sempre. E quindi per quanto riguarda la tua domanda in merito appunto alle foto anche da poter diciamo cedere, ecco così, in atelier, diciamo che lì entriamo in un discorso esclusivamente privato, perché lì è una concessione privata, ecco, nel senso ci si fida, ecco, di alcune persone e non di altre, per cui a volte le foto le concedo, a volte no, insomma, perché so benissimo chi ho davanti in quel caso. Ecco, ma ti è mai capitato un episodio spiacevole in cui hai dovuto trovare una situazione difficile da gestire, proprio sia online che offline, che in presenza? Sì, purtroppo, sì, diciamo, mi è capitato di essere stata chiusa in una stanza, quindi con chiave, diciamo, di essere stata chiusa da fuori naturalmente, e tra le tante. Era un artista, era? Ed era un artista, sì, quindi diciamo sì, o quantomeno ormai nella mia mente non lo è più, ufficialmente lo è ancora, ma nella mia mente non lo è più. Avrei avuto paura, immagino, in quel momento, non è bello essere sequestrati? In quel momento sì, però fortunatamente è stato talmente sciocco da diciamo chiudermi con tutte le mie cose, tra cui il cellulare, e quindi attraverso una minaccia di chiamare immediatamente i carabinieri ha riaperto la porta. Diciamo che era più un voyeur in quel caso, e perché guardava dal buco della serratura, detto in maniera molto terra terra, diciamo così, quindi aveva più altre esigenze. Al suo gioco era guardare dal buco della serratura. Esatto, quindi comunque, ecco, farsi questo chiudere dentro una persona è un atto di violenza estrema, non c'è questo. Esatto, per questo appunto ti dico, la paura è stata proprio l'impossibilità di uscire, anche perché ero ad un piano molto alto, non ero a piano terra, non avevo i vestiti con me, perché appunto il luogo in cui avevo riposto invece i miei vestiti erano da tutt'altra parte. E quindi ecco, la fortuna è stata che avevo comunque con me la borsa e il cellulare, che quindi la semplice minaccia di chiamare immediatamente i carabinieri ha fatto sì che lui mi aprisse. Poi mi viene in mente una cosa, scusa, ma questo... Dimmi. Tanto per giocare sull'episodio, anche se non c'è niente a giocare. Se avesse detto, guarda, io sono un artista, però dipingo modelle soltanto guardandole dal buco della chiave, tranquillamente, senza chiudere dentro nessuno. Dice, quindi tu stai in una stanza e guardo, io disegno dal buco della chiave. Può essere un punto di vista di un artista, senza ricorrere alla violenza, di farlo come atto di violenza. Certo. Tu hai ricevuto niente in contrario? Che ti cambia? Assolutamente no, assolutamente no. Infatti è sciocco, infatti non è semplicemente, c'è un atto di sadica violenza, perché esatto. Uno dice, io disegno soltanto il mondo visto dal buco della chiave, è anche un punto di vista interessante. Non c'è assolutamente alcun problema. My name is Lily. I'm 19 years old. No money to study, no boyfriend. I'm kind of bored. I went to the trade fair. Do you find a job? There I found a few guys in the army. They told me that I was smart and pretty. I'm going to war, I'm going to war, I'm going to war, I'm going to war, I'm going to war. She's going to war, she's going to war, she's going to war, she's going to war, she's going to war. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. A volte, guarda, ecco qui entriamo poi veramente in un discorso di fiducia, di onestà intellettuale, soprattutto morale ed intellettuale tra l'artista e la modella. Per questo insisto sui termini artista. Ma per dirti che era un artista, per modo di dire, perché un artista vero dice oggi inizia la fase del buco della chiave. Da oggi tutte le mie opere sono il mondo visto dal buco della chiave. Ha un senso profondo anche filosofico. Ma non c'è bisogno di chiudere con violenza una chiave dentro una stanza, scusa. Bravissimo. Che senso ha? Ti dico che a volte può capitare che un artista, e quindi appunto sia uomo che donna, illustratore, illustratrice, disegnatore, disegnatrice, eccetera, non è detto che se ha davanti a sé un corpo completamente nudo lo ritrae interamente. Fa delle scelte e quindi spesso e volentieri mi è capitato che comunque pur recandomi a lavorare per sessioni di una sessione privata, non lo so, insomma comunque una collaborazione privata anche con l'artista, l'artista nonostante io fossi naturalmente priva di vestiti perché dove stavo per posare, iniziare a posare, abbia scelto un'inquadratura, non lo so, dalle spalle al volto. Quindi senza inquadrare il resto del corpo e comunque io continuavo a posare nonostante tutto nuda. Quindi queste sono scelte assolutamente personali. Ma questo ci sta, l'artista dice voglio disegnare una donna nuda dallo sterno in su, è un fatto suo. Esatto, quindi il fatto però appunto di essere poi completamente nuda e ovviamente di non ricoprirmi non interferisce assolutamente con il resto, con la purezza. Ma per questo si dipinge dal vivo, sennò uno basterebbe che prende la foto tagliata in quella maniera, è diverso, è il pathos necessario per fare un'opera che abbia un suo senso. Appunto, infatti parliamo sempre di emozioni, è sempre lì il discorso, viva Dio, cioè nel senso che la base anche professionalizzante un rapporto umano, strano caso, cioè a volte è la parte tecnica che rende professionale un rapporto umano e non viceversa a volte, dipende proprio da quella empatia che si stabilisce, dalle emozioni, se tutto funziona bene ti posso garantire che veramente a volte basta uno sguardo d'intesa per proseguire bene, per lavorare bene, per capirsi, perché naturalmente tra l'altro in genere si ha l'impressione che il pittore o la pittrice metta in posa la modella. Sì, questo naturalmente se ha un'idea specifica lo può fare, ma ti posso garantire che è molto più bello lavorare nel momento in cui c'è un'interazione, quindi quando l'artista accetta anche delle proposte che poi ovviamente può correggere, ma le accetta sulla base del fatto che i corpi sono completamente diversi naturalmente da modella a modello e che quindi nessuno di noi potrà essere perfetto o idoneo in una determinata situazione di posa. Non è una posa, non sta bene a tutti, tra virgolette, come un abito non sta bene a tutti. Quindi, non lo so, ci saranno delle pose che potranno essere più gradevoli se viste e compiute da un modello che ha, non lo so, alto 1,80 con muscolatura estremamente evidente rispetto invece ad un modello che ha un'anatomia completamente differente. E il bravo artista sa anche distinguere ovviamente, sa perfettamente capire quale abito sta meglio, quindi quale posa sta meglio e non lo impone. Quando c'è anche questa forma di collaborazione e quando c'è questa disponibilità a sentirsi, allora lì si è raggiunto il massimo. E ti dirò, come diceva Borges, se non ricordo male, che a volte mangiando una mela non è importante il boccone che si è mangiato, ma è l'atto del morso. Spesso dal mio punto di vista, potendo in questo caso avere il tuo spazio a disposizione per parlare della mia parte più intima di questo lavoro, a volte non è tanto nemmeno il risultato che conta come opera d'arte, ma spesso quella che è l'emozione più importante che mi porto è proprio l'atto di aver posato, quindi il tempo della posa. Che è un tempo irripetibile. L'opera d'arte naturalmente potrà essere bella, brutta, nel senso gradevole per il pittore, vendibile, non vendibile, gradevole a tutto il mondo, eccetera. Ma quello che io mi porto dentro è un'emozione irripetibile che si è compiuta solo quando io ho posato e quindi che è completamente slegata poi dal risultato dell'opera d'arte che ne viene fuori. Spesso a me viene chiesto se mi piacciono i disegni o le opere che vengono realizzate. A me piace tutto, che non è una frase qualunquista. A me piace tutto perché qualsiasi tipo di tratto, qualsiasi tipo di pennellata, qualsiasi tipo di gesto nel ritrarmi, per me è uguale ad un'emozione che io ho provato o che mi si è fatta provare. Quindi non ne fruisco quando vedo me stessa riprodotta come se fossi una spettatrice, perché in quel caso poi viene fuori la parte di Mariangela che ama la storia dell'arte, che si reca alle mostre, che comunque ne fruisce a parte, al di là del fatto di fare la modella. Io prima del coronavirus vado al cinema, vado al teatro, faccio una scorpacciata di mostre all'infinito. perché mi piace la storia dell'arte, se insomma in un'altra vita probabilmente riprenderò una laurea specifica in storia dell'arte, ma al di là di questo appunto quello che mi porto dentro è il momento di posa condiviso con chi mi ritrae. Beh, una cosa l'ho imparata da questa lunga chiacchierata in cui mi hai detto tutti i segreti di un mestiere di cui conoscevo molto poco, e che i modelli viventi, che per professione devono stare zitti, hanno una gran voglia di parlare. Non t'azzitti mai, e interromperti è stato veramente un problema. Buon viaggio, ciao. Ciao. Je ne sens plus rien, plus tôt. Mon corps n'abrite rien de moi, petite. Rien ne m'accrédite plus trop. Sensation d'être grande au cœur de la démence. Mon cœur et mon corps ne savent plus trop. Mes souvenirs sont d'un temps bien plus fleuron, d'un temps d'un aplomb plus haut. Tellement sûr j'étais, tellement sûr j'étais de ma nature, de ma jeunesse. Tellement sûr j'aurais aimé que ça dure, que je reste. Mon héritage en lambeaux.